Questo è un podcast di Rivista Militare. Guerre sotterranee a confronto. I tunnel di Hamas e Hezbollah, di Dario Citati. La tunnel warfare come problema dottrinario. L'utilizzo di tunnel, gallerie e cunicoli sotterranei a scopi militari rientra fra i più antichi stratagemmi dell'arte della guerra. Solo di recente, tuttavia, alcuni paesi hanno cercato di fornire una sistematizzazione concettuale di questo peculiare ambiente, inteso prevalentemente non come dominio a sé stante, bensì quale componente del più ampio dominio terrestre. Nella pubblicazione ATP 32151 Subterranean Operations 2019 dello US Army, l'ambiente sotterraneo è suddiviso in tre categorie in base a tipologia di costruzione e scopi generali di utilizzo. 1. Strutture sotterranee naturali, tunnel, cave, grotte. 2. Strutture sotterranee civili, per lo più urbane, acquedotti, garage, reti fognarie e ferroviarie. 3. Strutture sotterranee militari, bunker, silos, caserme e basi. Le Israeli Defense Forces, IDF, prediligono invece una classificazione fondata sui concreti usi militari di livello tattico, individuando tre categorie. A. Tunnel offensivi. Ogni struttura sotterranea usata come piattaforma per lanciare un attacco. B. Tunnel difensivi. Rifugi, ma anche luoghi di detenzione ostaggi. C. Tunnel logistici usati per il trasporto clandestino di armi, mezzi e materiali. Smuggling tunnels. A livello strategico, analisti di varia provenienza pongono invece l'accento su due aspetti. Il primo è il carattere transfrontaliero, quando cioè l'ingresso di un tunnel si trova all'interno di uno Stato e l'uscita sbocca sul territorio di uno Stato confinante. Questo rende il tunnel in sé uno strumento di violazione della sovranità di un paese e fa dell'ambiente sotterraneo, anche quando esso sia teatro di combattimento con formazioni irregolari, un confronto fra attori statali contrapposti. Il secondo aspetto è l'eventuale collocazione di un tunnel al di sotto o in diretta prossimità delle abitazioni civili, un'eventualità che rende particolarmente difficile studiarne il percorso e pianificarne la neutralizzazione delle minacce militari, riducendo al minimo i danni collaterali. I tunnel di Hamas nella striscia di Gaza e quelli di Hezbollah in Libano meritano di essere analizzati comparativamente in virtù degli spunti che offrono sulla base delle somiglianze e delle differenze tra le due esperienze. La metro di Gaza e la terra dei tunnel libanesi a confronto. La costruzione di tunnel sul territorio di Gaza risale agli anni Ottanta, ma ha conosciuto un'impennata dopo che Hamas ha preso il controllo politico della striscia. Anno 2007. Non esistono cifre sicure e la mappatura esatta di questo network, che le IDF hanno informalmente soprannominato la metro di Gaza, è ancora in gran parte sconosciuta. Secondo le stime diffuse su fonti aperte, la rete ammonterebbe a circa 500 km complessivi, composta da tunnel di dimensioni assai diverse per lunghezza, larghezza e profondità. Si va da cunicoli molto piccoli, lunghi qualche decina o centinaio di metri e poco profondi, a tunnel di medie dimensioni, come quello scoperto nell'ottobre 2013, che dal villaggio di Abasan al-Sghira, località Khan Yunis, sbucava nel kibbutz di Ein Ashlosha, in territorio israeliano. Profondo circa 18 metri e lungo 1,7 km. Il più grande tunnel sinora mai scoperto a Gaza, dicembre 2023, superava invece i 50 metri di profondità per una lunghezza di 3 km. Proprio la profondità è la caratteristica che rende più difficili attività tattiche, quali il rilevamento, la mappatura, l'infiltrazione, l'esfiltrazione ostaggi, il combattimento o la distruzione del tunnel. In Libano il network sotterraneo di Hezbollah è noto invece come terra dei tunnel e appare ingegneristicamente più complesso. Secondo quanto ricostruito dai ricercatori israeliani, si articola in 36 zone dislocate in tre regioni. l'area di Beirut, dove è allocato il quartier generale di Hezbollah, il governatorato di Bica, a est al confine con la Siria, il Libano meridionale al confine con Israele. I tunnel al confine con la Siria sono soprattutto smuggling tunnels, in uso all'unità 4400 di Hezbollah, incaricata della logistica di armi e munizioni provenienti dall'Iran. Uno dei più importanti è stato scoperto a ottobre 2024. Lungo 15 chilometri, partiva dalla Siria in una zona montagnosa a sud-ovest della città di Homs e sbucava in Libano, nella località di Mraa el-Zakbeh. I tunnel che si avvicinavano o attraversavano il confine di Israele sono invece tunnel offensivi. Nel 2019 le IDF ne hanno scoperti 6. Il più grande giungeva a una profondità di 80 metri, era lungo circa un chilometro, di cui quasi un decimo, circa 77 metri, in territorio israeliano. La principale differenza fra i tunnel di Gaza e del Libano risiede nelle diversità topografico-geomorfologiche. Il suolo della striscia di Gaza è piuttosto friabile, in quanto si compone, su un'area totale di 365 km quadrati, di tre tipi di terreno: le dune, composte di materiale sabbioso granulare, e loess, sedimento argilloso di origine eolica o fluviale, l'arenaria calcarea, roccia sedimentaria granulare conosciuta in arabo palestinese come kurkuk. Questa composizione facilita notevolmente lo scavo. Le trivellazioni sono poco rumorose, possono essere effettuate con mezzi anche rudimentali. Al lavoro ultimato occorrono dispositivi sofisticati per rilevare l'esistenza dei tunnel. I tunnel scavati su questo tipo di suolo richiedono però rafforzamenti interni in cemento e acciaio, che non sempre Hamas è riuscita a realizzare. La stratigrafia del suolo libanese vede invece la presenza preponderante di rocce carsiche come calcare e basalto. I tunnel di Hezbollah hanno perciò richiesto tecnologie di scavo più avanzate, ma sono risultati più resistenti sia a livello suburbano, sia ovviamente quando sono scavati nella montagna. Un aspetto poco noto è che nella loro costruzione Hezbollah si è avvalso dell'esperienza della Corea del Nord. La compagnia di Stato nordcoreana Comit ha attivamente contribuito, dagli anni 2000, alla realizzazione della terra dei tunnel libanesi, e gli analisti israeliani hanno individuato notevoli somiglianze tra i tunnel di Hezbollah e quelli risalenti alla guerra tra le due Coree. Tecniche di combattimento, addestramento e tecnologie. Le forme principali e più frequenti di attacco sfruttando i tunnel sono due. 1. L'assalto in superficie uscendo da terra in forma di imboscata. 2. L'uso di esplosivi posti sotto target specifici oppure attirando il nemico all'apertura del tunnel. In entrambi i casi il principio fondamentale è la sorpresa. Alcuni esperti distinguono i tunnel di prossimità, proximate tunnels, scavati per avvicinarsi a un obiettivo e assaltarlo in superficie, e i tunnel esplosivi, explosive tunnels, utilizzati nel secondo tipo di attacco. Si tratta di una distinzione teorica non sempre utile. A volte si assiste infatti all'uso combinato e simultaneo dei due attacchi, usando punti diversi dello stesso tunnel. La battaglia di Shujaia, combattuta a Gaza il 20 luglio 2014, costituisce un caso di scuola in tal senso. Per affrontare la guerra sotterranea a Gaza e in Libano, Israele ha istituito un reparto specializzato, l'unità Diamante, in ebraico Siarei Ha'alam, di livello battaglione e reggimento, è alimentata da asset con specializzazioni differenti. Inquadrato nella divisione Gaza e dipendente dal genio militare israeliano, Ha'alam si compone di 5 plotoni operativi, 2 specializzati nell'uso di esplosivi, 1 in armi non convenzionali, il plotone Saifan, 1 in Engineer Reconnaissance, plotone Yael, 1 in combattimento sotterraneo vero e proprio, plotone Samur. Le soluzioni praticate da Israele prediligono l'ostruzione o la distruzione dei tunnel piuttosto che il combattimento in ambiente sotterraneo vero e proprio. Ad esempio, il ricorso a munizioni di tipo bunker busting, come le bombe guidate GBU-29, in grado di penetrare fino a un metro di cemento, o la GBU-28, capace di penetrare fino a 30 metri nel terreno, sono più adeguate ai tunnel libanesi scavati nella roccia. A Gaza essi risultano poco efficaci. Il terreno sabbioso tende ad assorbire la forza esplosiva, e gli effetti sul tunnel, specie se molto profondo, non sono sempre quelli sperati. Contro i tunnel di Gaza, le IDF hanno quindi iniziato a sperimentare le bombe spugna, sponge bombs. Si tratta di un'arma chimica non esplosiva che rilascia una schiuma spugnosa che si indurisce e i cui effetti sull'organismo sono sconosciuti e blocca l'entrata. Per questo tipo di utilizzo, finalizzato a bloccare i cunicoli e non a distruggerli, è fondamentale individuare tutti i punti di ingresso del tunnel. L'infiltrazione di soldati in ambiente sotterraneo è invece un'opzione più rara e limitata. La scarsa visibilità, gli spazi ristretti, le difficoltà di comunicazione e di esfiltrazione comportano alti rischi anche per i militari più addestrati. Essa viene pertanto utilizzata in operazioni mirate di salvataggio e liberazione ostaggi, più che come linea d'azione finalizzata allo scontro a fuoco con il nemico. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.